Questo programma è offerto da... Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com. Radio Zanardi, l'informazione è il nostro pane quotidiano. E buongiorno per questa nostra giornata di lunedì, 9:31 minuti, Radio Città Fucicola sulla scena stampa. Cominciamo dunque dal 7 ottobre, data non però del 2023 ma del 2024, perché leggiamo: l'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che l'esercito israeliano, l'IDF, ha preso d'assalto all'alba la città di Jenin in Cisgiordania, che fino a prova contraria dovrebbe essere territorio palestinese, anche secondo l'ONU è tutto, ma è invece occupata da Israele. Un corrispondente dell'agenzia ha riferito che diversi veicoli militari accompagnati da bulldozer sono entrati nella città dirigendosi verso i quartieri orientali di Halima, al-Sadia e al-Bayer. Secondo il corrispondente, le forze IDF hanno circondato l'ospedale governativo di Jenin e hanno chiuso le strade circostanti. Questo è quello che succede oggi, ma non solo, perché troviamo altri temi. Sono salite a 9 le persone rimaste ferite nella notte in seguito ad un attacco missilistico di Hezbollah contro le città di Haifa e Tiberias nel nord di Israele. Questo secondo il Jerusalem Post. Secondo cui nell'attacco è stato colpito anche un ristorante di Haifa. 8 feriti vengono ricoverati all'ospedale Ramblah di campus di Haifa e hanno riferito i media israeliani, tra cui anche un 13enne con ferite lievi. L'IDF ha fatto sapere che i razzi non sono stati intercettati e che per questo è stata avviata un'indagine. Ma razzi è ancora, perché le troviamo altro un tema, che i 4 razzi si lanciano dalla striscia di Gaza verso il sud di Israele, mentre nel paese sono in corso le celebrazioni del massacro del 7 ottobre dell'anno scorso. Quindi 3 razzi intercettati dalle difese aeree, mentre il 4 ha colpito un'area aperta. Quindi vediamo che Hamas non è affatto sconfitto, come vorrebbe far credere appunto l'esercito israeliano. Questo è quello che arriva in quest'oggi, mentre ancora possiamo guardare altri temi della giornata, con per esempio il titolo del Corriere: Israele sfida tutti un anno dopo. Incursione a Gaza e Libano, l'Iran chiude i cieli, minaccia: se attaccate colpiremo ancora. Mattarella: bisogna scongiurare l'allargamento del conflitto. Forse dovrebbe impegnarsi per una tregua, una pace veramente, non dire che ha sempre comunque ragione Israele. Ma alla fine del buio, dice Antonio Polito, che fa la quadra. Definendo la loro piattaforma il 7 ottobre come inizio della rivoluzione palestinese, i ragazzi del Corteo di Roma, senza forse saperlo, hanno dato una risposta alla domanda cruciale: chi ha cominciato questa guerra? E così è. Vedi come si fa presto a fare. Bravo Polito! Sempre bravo. E devo dire che questo naturalmente ci porta al 7 ottobre dell'anno scorso, che tutti i giornali vedono un inserto sull'argomento. Tra i tanti prendiamo quello del Fatto Quotidiano: quel diluvio avvicina la terza guerra mondiale, l'eccidio di Hamas, 7 ottobre 2023, dalla strage di Hamas sugli ebrei alla vigilia della guerra con l'Iran, cronache dall'inferno. Effettivamente, per dirla con Amin Maalouf, le crociate viste dagli arabi, è una gran bugia che tutto è iniziato il 7 ottobre, ma è indubbio che il 7 ottobre dell'anno scorso ha dato una svolta, ha cambiato il percorso della guerra, drammatizzandolo. Quindi gli eventi della striscia, che in 12 mesi hanno sconvolto l'opinione pubblica mondiale, più che altro hanno sconvolto la gente che abita a Gaza, credo, più che l'opinione pubblica mondiale, che alla fine comunque dorme sogni tranquilli. Allora, e poi ci sono temi su teme, ma e poi finisce con Oren Ziv, giornalista di 7-2 maggio: il 7 ottobre ho rischiato la vita, ma un crimine non ne giustifica degli altri. Quindi parole di civiltà arrivano anche da Israele, anche se vengono occultate da una propaganda massiccia. L'esercito israeliano dice: la guerra sarà lunga, e l'UNIFIL, sempre dal Fatto Quotidiano, dice: noi siamo in pericolo. Questo mentre questa notte l'Iran ha sospeso i voli perché teme appunto una cosa spettacolare di Israele, militare, bombardamenti massicci, proprio per celebrare un po' come le candeline sulla torta il 7 ottobre dell'anno scorso. Scatta il conto alla rovescia di questa rappresaglia di Israele, che poi rappresaglia. È nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, credo che chi abbia iniziato è un dibattito storico che certamente non inizia il 7 ottobre. A un anno 7 ottobre il pronto attacco israeliano: Netanyahu, vinceremo, nuovi scontri a Gaza, Jabalia sotto assedio, il ministro Gallan vola negli Stati Uniti d'America. Questo mentre Hezbollah senza capo, secondo l'intervento di Guido Limpio, sparito il successore di Soleimani, quindi ci sarebbe questi omicidi mirati, assassini mirati di Israele che continuano. E allora cosa colpirebbe Israele nella sua rappresaglia? Ci discute se il petrolio o il nucleare. Come dire fare baciare lettere testamento. Scegli. No? Scegli nel mirino. Quali sono gli obiettivi di Israele, dai siti atomici a quelli dedicati alla produzione e all'esportazione del greggio? Com'è se arrivassero in Italia e bombardassero tutti i siti e le gregge in Italia? Saremmo contenti, vero? Certo. Non faremo nessuna reazione. Questo. Ecco le opzioni minime e massime rispetto dell'UIDIF. Naturalmente il 1 ottobre c'è stato un attentato, ricordate, ad Haifa, e muore anche Victor Green, doppio passaporto, anche italo-israeliano, ucciso a Jaffa, lottava per un futuro e una casa. Questo è la quando arriva. E poi vediamo allora il giornale, che appunto il suo inserto si chiama Un anno di conflitto. Beirut tra le macerie, foto di Nasrallah, il quartier generale di Hezbollah preso ancora di mira, costanti il ronzio dei droni. Questo è quanto arriva dalla pagina del giornale. Certo che a studiare storia siamo un po' carenti nell'analizzare i fatti, soprattutto per gli inizi. Russia-Ucraina, 24 febbraio 2022, quando già da prima i voglia c'erano attacchi costanti alla Casa del Popolo, ai sindacati da parte di Kiev in questi territori di confine. Oltretutto andiamo ancora più indietro nel tempo, ma molto più indietro nel tempo, e dai giornali si intuisce vagamente che l'inizio sia stato il 7 ottobre 2023 con l'attacco di Hamas, e troviamo i titoloni principali che sottolineano e danno sentore che tutto ciò sia cominciato appunto da questa tremenda data. Ma in realtà, come ben sappiamo, sono decenni e decenni in precedenza che in Medio Oriente vi sono situazioni gravissime riportate in scontri, combattimenti, guerra che si estende purtroppo con conseguenze nefaste. Definirla rappresaglia è riduttivo, ovviamente, da quello che vediamo in distruzione continua, e tutto quello che riporta invece ai giorni nostri, oltre che il sottolineare questo inizio, viene invece messo a pagina, diciamo, 8 del Domani, quello che è conseguente a tutto ciò, come escalation senza fine, nuovo attacco a Gaza, Israele promette all'Iran raid come a Beirut. L'IDF ha lanciato una nuova offensiva di terra nella striscia, decine di morti nel campo profughi di Jabalia. Saranno stati tutti terroristi guerrieri, ma non penso che sia questa la descrizione che si può dare a questi disperati che non hanno altro che tende per rifugiarsi in condizioni disumane. L'Iran minaccia, non giocate con il fuoco, e qui troviamo appunto i momenti dell'invasione con carri armati israeliani che hanno guidato una nuova operazione nel nord della striscia di Gaza. Ma quello che invece riporta con una diciamo aspetto più incisivo è in prima pagina la strage, l'orrore e la vendetta, il pogrom, usando questo nome, il pogrom che cambiò la storia. A un anno dal massacro del 7 ottobre il mondo si interroga sul futuro. Un fatto è certo: Israele vuole rivoluzionare l'assetto del Medio Oriente. Questo è il Domani dalla prima pagina, con un approfondimento che dà questo muro tra gli ostacoli ostaggi detenuti ripresi in fotografia, il massacro e la nuova Israele, la storia è tornata a correre. Certo che se corre così sembra di più la grande mietitrice di corsa e molto in attività purtroppo. Alle radici del conflitto, dopo il grande pogrom di Hamas un anno fa, Israele vuol cambiare radicalmente l'assetto del Medio Oriente. Le origini del quadro che si vorrebbe costruire sono nei conflitti interni al mondo islamico e a quello ebraico, dal patto del 1744 al dibattito sul sionismo. Ecco, allora, ho ascoltato un intervento di Odi Freddi, molto lucido su tutto ciò, in cui riportò nel, mi pare, 1950 una affermazione, o poco dopo, insomma adesso la data precisa non ho ancora ripreso informazione certa, ma lo farò. Ha detto un diplomatico israeliano, disse: semplice, d'ora in avanti qualsiasi affermazione, qualsiasi critica alla politica o alle azioni di Israele saranno definite atto di antisemitismo. Ecco, da lì in avanti ci fu un confermare questa nefasta e questa binarietà che non ha alcun motivo concreto di reale, per cui la critica a qualsiasi azione politica, per dirne una, di Israele è considerato un gesto, un'affermazione antisemita. Da lì, come vi ho detto, poi troviamo costantemente questa parola di cui se ne dà una strumentalizzazione continua. Appunto dal Domani, quello che vi ho appena riportato. Allo stesso modo, da Repubblica potete immaginare Israele triste e in ansia, ricorda il 7 ottobre, tremendo tra l'altro, incombe lo spettro Iran, commemorazioni in tono minore ci saranno solo i familiari delle vittime, migliaia di soldati al sud, si temono terrorismo ed escalation con Teheran, ancora pesanti bombardamenti sul Libano, i pasdaran del raid su Beirut di venerdì persi i contatti con il capo al-Quds. Poi la prima pagina, Israele, un 7 ottobre di dolore e ansia, e questo ci ritorna poi ai giorni nostri con pagina 13, l'IDF torna ad attaccare Gaza, raid contro Hamas, decine i morti. Per l'esercito israeliano le brigate di Al-Qassam si stavano riorganizzando per lanciare razzi per l'anniversario del massacro. Le autorità locali, 3 morti al campo profughi di Jabalia, ci sono 9 bambini, colpita anche Deir al-Balah. I miliziani ieri sono riusciti a lanciare diversi missili verso il Negev, intercettato dall'Iron Dome, gli altri caduti in spazi aperti. Chiudo velocemente con il Carlino, un anno dalla strage, allerta in sinagoga, ghetto di Roma blindato. No, perché adesso c'è questa definizione dei pro-pal, capito? Ragazzi, attenzione ai ragazzi incappucciati durante le manifestazioni. E non stiamo attenti a quello che sta succedendo in tutta Europa e anche in Italia, ovviamente lo vedremo con chi si rifà con degli slogan direttamente alle SS, ai nazisti, e abbiamo invece una preoccupazione per chi chiede una pace e stop ai bombardamenti. Beh, direi che anche in questo caso, oltre che ai percorsi storici, abbiamo una vista un po' strabica anche per quanto riguarda la realtà. Comunque, Tel Aviv continua i raid nella striscia in Libano, l'Iran chiude i cieli. E a proposito di visione strabica, ci raccontano che il supercomandante supremo degli Stati Uniti d'America è a Gerusalemme con Netanyahu, ma gli americani non faranno azioni offensive con l'Iran, difenderanno su Israele dalla ritorsione iraniana, come se non fosse partecipare alla guerra questo. Tu pensi a difesa, io penso all'attacco, però gli americani non c'entrano nulla, anzi, lavorano per la tregua, tant'è che appunto qualcuno ci sta guadagnando. Venti di guerra, petrolio, le stelle. Quindi, è stato poi Biden che ha detto furbamente: non colpite i centri nucleari, colpite i centri petroliferi. E il petrolio va su e qualcuno ci ha guadagnato. Non dico la famiglia di Biden, no, però. Però delle grandi fondazioni che magari danno denaro al Partito Democratico, sì. Scusate. Più 13% in 3 giorni per il possibile contrattacco di Tel Aviv a impianti iraniani. Questo è quello che arriva. Nel frattempo, tristemente, si annuncia la morte di un ostaggio, Idan Shrivi, 28enne israeliano, tenuto appunto uno stagio di ammassi, in realtà era stato assegnato già il 7 ottobre scorso al festival famoso del Rave, annunciarlo è stato il comune di Petranivka, e lo riferisce il giornale Arez. Su quello del tutto iniziato il 7 ottobre segnalo anche Contropiano, che leggo in, tra le altre cose: i nemici del popolo palestinese vorrebbero ancora oggi inchiodare la discussione e diffondere la narrazione secondo tutto il male iniziato il 7 di ottobre. Una tesi insostenibile da ogni punto di vista, talmente insostenibile che milioni di persone in tutto il mondo l'hanno respinta, scendendo per mesi nelle piazze al fianco dei palestinesi di moltissimi paesi occidentali. Quella tesi non solo cancella le migliaia di palestinesi uccisi prima del 7 ottobre nelle varie operazioni di militari su Gaza, piombo fuso, margine protettivo, guardiano delle mura, il cecchinaggio di massa contro la grande marcia e ritorno al confine di Gaza, eccetera eccetera eccetera, ma ammette anche che negli anni precedenti è stato un mix tra il politicidio della questione palestinese e la pulizia etnica attuata attraverso il boom degli insediamenti coloniali israeliani in Cisgiordania, che rendono praticamente impossibile la nascita di uno stato palestinese indipendente a fianco di quello israeliano. Questo così qualche nota en passant, c'è tutto iniziato il 7 di ottobre, sempre a Mimalouf le crociate viste dagli arabi, verrebbe da raccontare. A proposito di manifestazioni, sabato scorso non solo a Bologna, a Roma, ma in tutto il mondo, in particolare tutte le città arabe, hanno visto migliaia e migliaia di persone, Giordania, Iraq, Qatar, Istanbul, cioè, ma anche Londra, Berlino, di questo non si è detto nulla, ma ci si concentra sui tafferugli in fondo alla manifestazione. Ma è così. Posso dire una cosa, che quando gli scontri sono veri, non vedi la stampa internazionale a un metro da chi si bastona, tutti presi con fotocamere, telecamere, telefonini e i microfoni per prendere, stanno più lontani. Basta vedere non solo Gilles Jaune in Francia, ma anche i tafferugli, sì, davanti a qualsiasi stadio italiano, certo. Non stanno lì. E poi vorrei vedere questi 30 passa feriti dei poliziotti, fateceli vedere una volta ogni tanto, perché sembra impossibile che dei poliziotti difesi fino ai denti con scudi e quant'altro, ma della gente che ha delle bandiere, sì, voglio dire, si ferisca. Vogliamo vedere in TV, anche perché siamo convinti che se fosse un poliziotto veramente ferito non solo sarebbe in TV, ma sarebbe ci andrebbero tutti i capi politici, il Presidente del Consiglio, magari quello della Repubblica, a fare visita. Comunque, Mattarella solidale con gli agenti feriti. Oggi Meloni alla sinagoga per l'anniversario del 7 ottobre. Ci sarà anche Nordio, che bella compagnia. La Questura di Torino ha vietato un corteo oggi per la Palestina. Questo è naturalmente... Questa sceneggiata, perché è una sceneggiata degli scontri, porta a un tu per tu. Raccontato dal giornale, lo Stato contro i CARC. Per me vince lo Stato, sai? Facile, facile. Chi, di 30. Chi non condanna la caduta è complice. I CARC sfidano il governo autunno rovente. Questi CARC, questo è quanto arriva. Oggi è l'antiterrorismo al lavoro sui scontri. Oggi Meloni alla sinagoga. Naturalmente oggi è una giornata molto sensibile, perché non è certo difficile pensare che possa esserci un cane sciolto che pensi di fare una strage in omaggio, eccetera, eccetera. Quindi questo è, trovo, più che naturale. Ma al di là di questo, quello che succede è che non solo è proibita a Torino questa manifestazione, ma anche proibite manifestazioni a Brescia e Bergamo. Insomma, non si può manifestare per la Palestina, non si può, perché siamo uno Stato libero e democratico. Sulla Palestina non si può. E anche sabato non potevano uscire dalla piazza, perché è stata molta gente, e quindi più di quanto Piantedosi sospettasse, non ha potuto impedirlo. Però confinati nella piazza come dei lebbrosi, questa è la questione. Hanno paura di questi ragazzi e non dicono niente, che in Europa, e non solo in Europa, l'ultradestra più nazista è quella, non è antisemita questa. Ci segnalava dai suoi giornali Andrea Venerdì, questa... che in Veneto c'era un'unione della destra antisemita dichiarata, che facevano appelli contro gli ebrei, ma quelli no. Bah. Quelli non sono normali. Comunque, allora veniamo a queste proibizioni, in particolare quella di Bergamo. Lo sentiamo dai colleghi e compagni della Dondadutto di Brescia, Alfredo Barcella dell'Associazione Amicizia Italia-Palestina e del Coordinamento Palestina di Brescia, quello che succede appunto da quelle parti. A dire la verità, noi siamo stati sorpresi da questa prescrizione che ci vieta di fare il presidio in Largo Formentone lunedì, perché il coordinamento Palestina di Brescia da un anno a questa parte ha fatto tantissime cortei, tantissimi presidi, varie iniziative di divulgazione della situazione che si sta sviluppando in Medio Oriente, a partire da Gaza, da Cisgiordania, dal Libano e in tutto il Medio Oriente. Per cui questo divieto ci ha colto sinceramente di sorpresa, insomma, noi non pensavamo di essere un pericolo pubblico. E credo che, dato che è stata anche vietata anche altre iniziative simili, probabilmente tutto discende da una scelta politica di questo governo per il 7 ottobre. Noi il 7 ottobre è stata una giornata dell'anno scorso che ha sconvolto la vita di molti in Medio Oriente e a un anno da questa parte ci troviamo con più di 50.000 morti a Gaza, migliaia di morti in Libano, in Cisgiordania sono aumentati di parecchio con le aggressioni dei coloni, per cui non è una ricorrenza. Noi vogliamo continuare la nostra idea del presidio del 7 ottobre era di proseguire la nostra protesta, la nostra denuncia contro il genocidio e contro la pulizia etnica che si sta facendo in Palestina e contro l'aggressione al Libano, e per quello noi scendevamo in piazza. Era questo quello che abbiamo sempre detto durante questi mesi. E le nostre richieste sono le solite: un cessate il fuoco immediato e permanente, il ritiro di tutte le truppe sioniste da Gaza, il ripristino della tra virgolette sicurezza per i palestinesi in Cisgiordania, che subiscono le aggressioni dei coloni tutti i giorni coadiuvati dall'esercito. Per cui era questo il senso della nostra iniziativa, e ci siamo trovati così con il divieto di poter esprimere il nostro pensiero. Questo per quanto riguarda il 7 ottobre. A questo punto cosa farete lunedì, se farete ugualmente qualcosa? Ma noi stiamo pensando sinceramente di convocare una conferenza stampa per spiegare e motivare il nostro rifiuto di quello che viene prescritto come esigenze di sicurezza pubblica. Noi vogliamo spiegare quello che ho detto prima, che noi vogliamo continuare a denunciare l'aggressione e il genocidio israeliano, la complicità delle società occidentali, compresa l'Italia, e dei regimi reazionari arabi all'aggressione israeliana, e vogliamo continuare a sostenere la volontà di resistenza del popolo palestinese e esprimere tutta la solidarietà che possiamo fare. Questo noi vogliamo continuare a fare, e per questo stiamo pensando di convocare una conferenza stampa, e invitiamo tutti i giornalisti democratici di tutte le testate che sono a Brescia di venire per ascoltare le nostre posizioni. Questo noi pensiamo di poter fare, dato che non possiamo, il presidio è chiaro, il rifiuto è netto, noi diciamo una conferenza stampa per spiegare le nostre motivazioni. Rassegna stampa di Radio Città Fujita. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Da una guerra a quell'altra, anche se quell'altra, l'Ucraina, adesso è davvero sottotono. Hanno detto che devono trattare. Sì, anche perché è imbarazzante aver detto che mai tratteremo, improvvisamente bisogna trattare, dando ragione involontariamente a quelli che da 2 anni chiedono una trattativa e una tregua per non massacrare il popolo ucraino e il suo territorio. Questa mattina leggiamo di una serie di esplosioni che vengono udite nella notte nella Crimea dei russi, dice RBC Ucraina. Secondo il canale vengono udite 7 esplosioni, spari vicino alla base aerea di Sakhi e anche esplosioni nel distretto di Simferopoli. Tutto questo però l'analisi è preoccupante, perché preoccupante è il termine che usa la redazione di Faro di Roma. La preoccupante incertezza in cui si trova ora l'Ucraina, mentre Washington ignora ogni maniera possibile l'idea di porre fine al conflitto. Leggiamo cosa dice il colonnello McGregor, ex consigliere del Pentagono, quindi non siamo in casa di dei ragazzi propalli. Le forze armate russe si muoveranno verso il Dnepr, distruggendo i resti del sistema HIMARS lungo il percorso, e potrebbero raggiungere Kiev. Questo è l'ex consigliere del Pentagono, che lo ha dichiarato in un'intervista a George Galloway, scrittore e politico britannico, parlamentare del 24 per il collegio di Rockdale. Secondo Galloway, il conflitto finirà entro Natale. I russi sono in vantaggio in Ucraina, le forze armate ucraine non sono particolarmente propense a continuare la resistenza. Questa è la situazione di demoralizzazione militare, psicologica. Allora, come risponde il vertice degli americani? Per la NATO servono più truppe e armi per fermare la Russia. Questo, il raggiungimento degli obiettivi richiederà più del 2% del PIL in investimenti da parte degli alleati. Quindi, ragazzi, tirate la cinghia su scuola, sanità, lavoro, perché dobbiamo dare armi per questa guerra impossibile. E allora Augusto Minzolini, altro ragazzo che non può essere definito un propal, dice: serve una meta per Kiev e anche Tel Aviv, ma parliamo di Kiev. Dunque, l'individuazione di una meta, di un obiettivo, di un epilogo. Non è più tempo di guerre che durino 100 anni, come secoli fa, ma neppure 20 anni, tanto durò il conflitto vietnamita nell'ultimo scorcio del Novecento. Se non si immagina via d'uscita, Gerusalemme e Kiev rischiano di perdere la simpatia, la solidarietà che hanno suscitato nei più sfegattati fans. Questo di una meta bisogna anche l'Ucraina. Esattamente sul giornale 7 ottobre, 2 anni fa, Tardai forse per primo l'ipotesi di un'intesa magari tacita per arrivare ad una tregua che consisteva nella rinuncia da parte di Kiev dei territori conquistati dai russi in cambio l'ingresso alla NATO e garantisse la sua democrazia, eccetera. Quindi se questo succede, e magari succedesse e finisse la guerra, però dimostra che dell'Occidente, dell'Ucraina, non gli fregava niente. Gli interessava unicamente portare i missili più vicini alla Russia. Però la cosa è tutta da vedere, perché Zelensky fa fatica a digerire questa cosa dopo che ha detto mai più tratteremo con i russi. Questo è quello che arriva dalla pagina dell'Ucraina. Io non ho nulla, e questo conferma comunque quello che sta succedendo, né dal Domani né dal Carlino, tantomeno da Repubblica. Quando Repubblica tace su questo argomento vuol dire che i percorsi sono come appena scritti da Alfredo. Allora do uno sguardo generale per poi passare agli Stati Uniti d'America, come si usano le risorse. Così la struttura industriale dell'Unione Europea mina la sua stessa competitività. Non basta occuparsi di stabilità dei prezzi e debito. L'Unione Europea deve affrontare la profonda crisi del settore industriale. I governi europei devono capire che è nel loro interesse definire una politica comune o avranno vita breve. Con il suo rapporto nella competitività, e qui abbiamo appunto chi ha dato parole di grande entusiasmo per quello che sarebbero stati i percorsi nell'aspetto bellico russo-ucraino, cioè Mario Draghi, che ha detto: metteremo in ginocchio la Russia, avremo un rilancio dell'economia. Ecco, questi sono stati i risultati e danno a Mario Draghi ancora delle possibilità per quanto riguarda questi percorsi. Ha messo in guardia l'Europa sui limiti strutturali della politica industriale europea. Secondo me, ascoltare anche solo alcune di queste dichiarazioni fa tremare le vene ai polsi, anche perché sanno bene poi dove andare a prendere i soldi e a chi portare motivo di sacrificio. E questo è lo sguardo nel compimento di quella che è una situazione già di per sé gravissima come una guerra, con tanto di dichiarazioni. Se bombardare o meno direttamente il territorio russo, cioè una cosa che non la salta neanche i cavalli, una follia totale, oltre che ovviamente da pacifista dico: ma non si deve bombardare in assoluto, e condanno tutto ciò da qualunque parte, però è una modalità di procedere questo se vuoi dare un rilancio all'economia. Ma a pagina 12, a pagina 13, come vi ho anticipato dal dal resto del Carlino, invece Stati Uniti d'America. Il voto negli Stati Uniti. Allora abbiamo Musk al fianco di Trump. E Musk si è presentato con una maglietta con la scritta "Occupiamo Marte". Magari andate e stateci a lungo finché non vi vengo a chiamare io. Ma nel frattempo occupano il Cisgiordania. Ah beh, si allenano in questo modo, sì, hai capito? Perché noi occupare è il termine. E certo, certo, dovunque invece... sia, dagli indiani d'America all'India, quello, occupare è il nostro termine. Ecco, andate a occupare Marte, state là finché non vi vengo a chiamare io. Entro il 2027 guadagnerà $1 trilione. Erano le cifre di Paperon de Paperoni. Oh, io sto comunque fin da subito con la resistenza di Marte. Non ho dubbi, non so come sia, ma io sto con la resistenza di Marte. Non sappiamo poi se ci sarà, però il voto negli Stati Uniti, Musk al fianco di Trump, dobbiamo vincere o sarà l'ultima elezione. L'imprenditore arringa gli elettori sul palco di Butler in Pennsylvania, è il luogo dove il 13 luglio Thomas Crooks cercò di uccidere l'ex presidente dal proprietario di X, cioè Musk, un discorso di 5 minuti, però, che ha infiammato i supporter, e qui l'immagine con l'incoraggiamento per quanto riguarda l'occupare Marte. Questo è Stati Uniti e quello che vediamo anche da altri quotidiani, che è una delle argomentazioni che possiamo definire altri esteri. Vediamo se Repubblica ne dà motivo di approfondimento e come. Nel deserto industriale che rischia di regalare la Pennsylvania a Trump, Aliquippa era una cittadina fiorente, ma ci sono delle immagini dagli Stati Uniti d'America nelle città dove gli homeless, la povertà, il degrado è veramente devastante, soprattutto gli ex centri industriali da Detroit a Cleveland a Chicago, che erano una volta dei bacini industriali ovviamente che portavano lavoro. Poi la fabbrica chiusa e coi posti di lavoro è sparita la speranza, come vi dicevo. E l'acciaieria Jones and Loughlin di Aliquippa in una foto d'epoca, e sotto lo stesso luogo, è allucinante, oggi deserto e ritenuto così più che altro purtroppo covo di disperati e persone che non hanno nemmeno un tetto. Il colloquio con il capo della campagna, Chris Lacivita: le elezioni si decideranno in questo stato, parla della Pennsylvania, e il team di Donald è tornato a sperare. La partita resta aperta, si temeva che Harris scegliesse come vice il governatore Shapiro, e invece appunto questi sono i percorsi per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, che vengono ripresi da Repubblica. Dal giornale "Voglio una vittoria totale con Musk e Trump show". E tra l'altro Trump è una cosa pesantissima, bisogna una vittoria totale, altrimenti ci rubano anche questa vittoria. Vuol dire che se perde, visto che i sondaggi danno testa a testa, sa Dio cosa succede da quelle parti. Sì. Comunque vengo invece all'Africa. È il giornale davvero scandalizzato. Dunque, continente senza tregua, perché? Non perché sono conflitti, morti, no. Miniere nazionalizzate dalla giunta di Burkina Faso, schiaffo agli occidentali. Questo è il senso. Che hanno nazionalizzato le loro cose. Sì. Il leader: stiamo per ritirare i permessi, sappiamo estrarre l'oro. Dunque, ci sono licenze minerarie, dice il capo, il capitano Ibrahim Traoré, adesso al potere in Burkina Faso. Ci sono licenze minerarie concesse a potenze che rifiutano categoricamente di sostenerci con la lotta contro il terrorismo. Oggi un buon numero di licenze vengono già ritirate e continueremo a ritirarle. Quindi con la Francia non è contenta, perché no, è la sconfitta della Francia nel Golfo di Guinea. Sempre parlando di colonialismi, Africa è depredata dall'Occidente anche sul cacao. Beh, gli lasciamo la cioccolata, che cosa siamo scemi? L'aumento dei prezzi del cacao causato dalla carenza della produzione globale ha portato a un aumento dei furti di questa materia prima della fattoria del Camerun, denunciano gli agricoltori e autorità, costringendo i contadini a rivolgersi a vigilanti armati di macete e amuleti per fermare i ladri. Dopo l'oro, il coltan e gli altri minerali preziosi, le milizie ora vanno a caccia di soldi facili col traffico delle fave di cacao, cui i prezzi sui mercati occidentali sono alle stelle. Questo è quanto. Portandomi invece verso Occidente, Saied verso il bis nella Tunisia azzerata. Il presidente ha vietato partiti, comizi e silenziati media. Queste elezioni democratiche in Tunisia, che è un porto sicuro, ricordiamo, certo, insieme alla Libia. Solo due i suoi avversari, uno è in prigione, fra dei gran comizi e compagno di cella. Quando alla non suonerà raccolta. Raccogli le armi, vai in strada e lascia tutto dietro quella porta. Il nemico ti aspetta lontano oltre il mare. Tu non puoi tirarti indietro, no, questa guerra si deve fare. Viva, viva la guerra. Santa, santa la guerra. Viva, viva la guerra. Santa, santa la guerra. Hai lasciato la tua terra, la tua donna, ma per il suo bene, per la sua gloria, che tu ammazzerai. Il feroce Saladino è ben armato e forte, ma tu lo temi, tu non hai paura, e anche il Dio dalla tua parte. Viva, viva là, viva la guerra. Santa, santa là, santa la guerra. Viva, viva là, viva la guerra. Santa, santa là, santa la guerra. Viva, viva là, viva la guerra. Santa, santa là, santa la guerra. Difendi la libertà, e quelli contro sono cattivi, di loro non aver pietà. Se per caso tu morissi non devi temere, ti faremo un bel monumento che tutti quanti potranno vedere. Viva, viva là, viva la guerra. Santa, santa là, santa la guerra. Viva la guerra, Edoardo Bennato, del tempo. E a proposito, due incisi prima di passare alle notizie nostrane, o meglio, nostrane questa ancora tornando a manifestazione a Roma, cosa che non viene data dai grandi mezzi di informazione, o ce lo dà il Fatto Quotidiano. Pestato 18enne dopo il corteo pro-Palestina erano sionisti. Questo naturalmente non fa testo. È un 18enne pacifico, infatti sabato se n'è andato dalla piazzale Ostiense prima che iniziassero gli scontri. Eravamo in tre, avevamo una bandiera palestinese, abbiamo fatto 500 metri verso il Circo Massimo, un ragazzo mi chiede una segreta, mi ferma e gli dà due pugni in faccia, allo zigomo, al mento, racconta, sono scappato e altri tre mi hanno bloccato, mi sono buttato a terra coprendomi la faccia e mi hanno preso a calci, soprattutto la schiena, mi hanno preso la bandiera, avevo una ventina d'anni questi ragazzi. Questo naturalmente, questi non sono antisemiti, sono solo degli stronzi. Sì. Detto questo, oggi c'è la giornata internazionale per l'infanzia, che allora il quotidiano del sud oggi dà questo titolo con la foto di un ragazzino bimbo nelle macerie di Gaza: infanzia, tutti i diritti dimenticati. Ancora tanti, troppi minori in Italia e nel mondo deprivati dei principali diritti dalla salute, alla sicurezza, all'istruzione, ad una casa, al gioco. Tantissimi in costante crescita, quelle vittime di conflitti, carestie, crisi climatiche. Troppo numerosi anche coloro che sono ospitati nelle strutture d'accoglienza per orfani, minori in stato d'abbandono e non accompagnato, mentre aumentano i ragazzi reclusi in istituti di pena minorili. Tra poco più di un mese, intanto, il 20 novembre ricorre la giornata internazionale per l'infanzia, per l'appunto, come dicevo. Questo è, direi che è la cornice terrificante che dimostra il mondo che stiamo vivendo. Allora andiamo alla nostra finanziaria, perché Giorgetti, ipse dixit, l'ha detto a Pontida, di cui parleremo più avanti. Giorgetti, sacrifici, so distinguere. Sì, Sa benissimo. Sa dove bastonare. Sì, sa benissimo. Diesel, i camionisti temono rincari. Ora, naturalmente le accise sul diesel, l'ennesima tassa della Meloni, è chiaro che colpisce innanzitutto chi va a diesel, i camionisti in primis, ma poi tutto il sistema del cibo, delle merci, visto che in Italia le merci corrono su gomma, se tu fai crescere il costo della gomma crescono anche tutti i prezzi, questo è quanto. Ma veniamo invece alle gioie della classe operaia in Italia, per cui raccontate per esempio da Leonardo Bison, e dal Fatto Quotidiano. Dunque, schiavi della moda a Prato ogni giorno, a Prato primo sciopero, costretti al lavoro 12 ore 7 giorni su 7. Queste 7 ore vi sembrano poche, eh? È l'incanto dell'inizio sì, 800 esatto. Sindacato Sudo Cobas, immigrati registrati a part time ma senza giorno di riposo, questa è la teoria dei flussi. E poi il lavoro, il Fatto Economico va sulla repressione, cioè parliamo di piante dosi, famosi decreti sicurezza, come un governo dei padroni, come questo, il disegno legge sicurezza, legge ammazza scioperi, Piantelosi dice nuovo reato per chi blocca le merci sul suo corpo, qui parliamo dei picchetti della logistica, certo. Per fermare le proteste nella logistica, recidivi, il criminale leghista come già nel 2018 colpisce i lavoratori, quelli sempre stranieri, beh è chiaro, colpisce il più debole, in un settore ad alto tasso di sfruttamento. Questo. E tutto questo ci porta loro, i migranti, il lavoro nero, resta la finzione dei flussi, colpiti diritto d'asilo e ONG. Gli esperti del settore sono ovviamente critici sull'ultima cosa di Palazzo Chigi. Confermati i click day e il sistema opaco degli ingressi prenotati dalle imprese, che è naturalmente il vero collante delle imprese in questo punto sulla mafia che ha rapporti con l'altra sponda del Mediterraneo. Unica novità positiva, più permessi a chi denuncia. Questo è il commento del Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda la giornata invece dell'economia ripresa dal Fatto Quotidiano, descalzi il governo contro la transizione, l'influenza dell'ENI sulle scelte Meloni. All'appuntamento di Forza Italia, la D del Colosso ha definito la traiettoria europea sullo stop ai motori endotermici, insulsa e ridicola, nel mirino le ideologie di una minoranza. Bonelli, AVS falso, dichiara così, sono decisioni prese dalla maggioranza dei paesi dell'Unione Europea. L'editoriale riprende il tema in prima pagina, la manovra è il momento della verità per l'esecutivo, e quindi insomma la situazione che poi viene riportata in continuità a Repubblica con le dichiarazioni di Giorgetti, so a chi chiedere sacrifici, ecco il momento della verità, ma già comunque è una verità che conosciamo. Lo temo anch'io che sappia. Sì, IRES più pesante, dice sugli utili delle imprese, il MEF valuta sia il taglio delle detrazioni sia un addizionale, le trattative parallele con ABI e Confindustria. Quindi sicuramente, guarda, Confindustria e ABI diranno tassateci di più, ma come, siete andati molto leggeri in questo caso, gli extra profitti delle banche, ma dateci dentro, immagino, spending review per i ministeri con i tagli lineari, Farnesina nel mirino e la segretaria del PD, Lush Lane, che così dice non è tabù una patrimoniale sulle grandi ricchezze. E qui si imbizzarriscono ovviamente tutti i cavalli liberisti, certamente ogni volta che si nomina questa parola sembra che venga citata ogni tanto anche un po' a bassa voce, come nell'occhiello di approfondimento a pagina 6 del Repubblica, e quindi si mantiene proprio con questo tono. Si potrebbe forse fare una patrimoniale? Sì, l'ho usato persino la slime, dopo che l'ha adombrata Giorgetti, la slime ci prova, però subito lo stop, dalla prima del giornale, tasse migranti, la ricetta di Salvini, perché Forza Italia, addio! E auguri che si tassino i patrimoni. Certo, e questo già purtroppo l'abbiamo vissuto con quella continuità che abbiamo trovato nel motivo di grandi crisi nel mondo del lavoro, perché le conseguenze poi sono molto molto chiare, e non solo dal punto di vista della produttività, perdonate la parola, ma anche per quanto riguarda la sicurezza. Io prendo il Carlino di Bologna, morto, morte tragica sui binari il giorno del dolore, in centinaia a Formia per l'addio ad Attilio Franzini, i familiari dicono basta vittime sul lavoro, le indagini sono a un bivio e quante volte abbiamo sentito appunto di questi tempi, a pagina 2, a pagina 3, operaio travolto e ucciso dal treno, una morte tremenda, la polizia ferroviaria ha inviato ai magistrati il rapporto con le testimonianze e la documentazione, ora i PM affideranno una perizia per capire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuta a San Giorgio, e questo con le immagini anche delle esequie di questo giovane lavoratore travolto. Sulla cronaca locale viene ripresa dal Resto del Carlino. Volevo trovare un'affermazione che mi pareva fosse portata da Piantedosi, appunto, che diceva: la sinistra ha come nemico l'autorità e la patria, e quindi altro che divieto per le manifestazioni, questi sono i veri nemici, l'autorità e la patria, per cui insomma già abbiamo capito la linea di Piantedosi che già conoscevamo, con questa affermazione ne ha ottenuto una lucida, più direi nera, conferma. Questo arriva dal Domani. Sì, allora c'è anche un parlare, direi un blaterare, sull'aumento delle pensioni minime. Si parla, pensa un po', di portare dal 6,14 a 6,21. Ah, però! Che è più o meno la rivoluzione dell'INPS automatica. Sì. Però, dice il messaggero, il direttore dell'INPS, pensioni minime più alte si può. È una grande vittoria. Si potrebbe. Sì. Questo. Detto questo, invece, veniamo alla campagna di rilancio per l'azionariato popolare della ex GKN di Campi Bisenzio a Firenze, che dal 2021 è in autoproduzione, in autogestione. È una campagna che ha avuto dei grandi risultati, ha sfondato anche il milione di in questo crowdfunding, anche perché sono le basi per proprio ricostruire la filiera produttiva. Ma sentiamo su questo Massimo Barbetti del collettivo di fabbrica SGKN. Agli ascoltatori che comunque non sono stati raccolti soldi interi, nel senso sono state raccolte delle prenotazioni delle azioni, e quando la cooperativa avvierà la produzione, avvierà l'attività, queste prenotazioni saranno trasformate in effettive azioni che saranno date in relazione a quanto tante persone hanno prenotato. Ecco, questo è giusto ricordarlo, perché non è sufficiente l'azionariato popolare, ci sono molte cose che servono per portare avanti questo progetto. Ce le vuoi ricordare, Massimo? No, servono tante cose. Allora, innanzitutto è necessario il supporto dell'azionariato popolare e che tutte queste persone diventino a tutti gli effetti finanziatori e soci finanziatori della cooperativa. Il piano industriale elaborato anche grazie ai solidali in realtà è stato posto al vaglio di università e tante realtà, e quindi ne parleremo anche in occasione dell'assemblea che ci sarà appunto il 13. Insomma, tutti i passi che noi come collettivo potevamo fare, li abbiamo fatti e li illustreremo in sede d'assemblea. Mancano tutti i passi invece che la politica deve fare. Noi lo ricordiamo, non siamo solo un gruppo di lavoratori che si sono messi in testa di fare una cooperativa, ma noi stiamo vivendo in un'avvertenza che ha visto anche in settembre lo svolgersi di continue disturbi da parte della proprietà, e quindi c'è appunto, ci deve essere una volontà politica di mettere a terra questo piano, ci vuole necessaria questa legge che stiamo cercando di far approvare dal Consiglio regionale della Toscana, che permetterebbe alla regione toscana di interfacciarsi con la proprietà, appunto per rilevare lo stabilimento, che è necessario appunto per trasformare una vertenza che vedeva la cancellazione dei posti di lavoro in nuovi posti di lavoro e la creazione del condominio industriale. Questi sono i passaggi che vengono richiesti alla politica e senza di questi questa parte non verrebbe soddisfatta. Per cui in assenza ancora di questa parte, ma ci sono tempi molto ci sono stati almeno dei tempi molto lunghi, noi contiamo che invece la politica, a partire dalla concretezza del piano industriale che abbiamo presentato e della concretezza degli investitori che verranno all'assemblea, si dia una svegliata e concluda tutto quello che deve concludere. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Questa mattina sulle 24 ore apre sull'ambiente. È rischio calamità, Italia è più fragile, ma non illudiamoci. Qual è l'obiettivo delle sulle 24 ore? Far fare affari la finanza e delle assicurazioni, perché leggo, ma sulle polizze insegue l'Europa. E quindi cosa stiamo a aspettare? Contro i danni da catastrofi, assicurato il 5% delle aziende e il 6% delle case. Nel nostro paese il quadro delle regole è in ritardo. Ci vuole far tutti assicurare sull'ambiente, qui ci paghiamo l'ennesima tassa, l'ennesimo contributo e comunque le alluvioni arrivano lo stesso. Non è che la sicurezza del suolo, pericolo alluvioni per il 29,4% della penisola, biodiversità, più difese contro il clima estremo. Questo è il Green Deal padronale che troviamo. A proposito di tempo, cronaca milanese, ma penso che valga anche per Bologna, grosso modo, l'inizio d'autunno più freddo da 30 anni, sì, perché è un freddo almeno, e siamo tutti raffreddati. Calorifere accesi dal 15 ottobre, salvo deroghe. Ho capito, e la crisi climatica continua, che è paragrafo ambiente, ma è dagli esteri, così facciamo il collegamento, perché trasforma gli Stati Uniti in zona di guerra. È vero, l'uragano Helene ha devastato il North Carolina, la politica americana ignora il clima, ma tra il 2019 e il 2024 tutti gli stati hanno subito eventi estremi. Ecco, a proposito di eventi estremi, e dove invece c'è stato un weekend, per me un weekend nero, però era su un prato verde, era Pontida, la Pontida nera di Orbán con un raduno leghista. Il premier ungherese, invocato dalla platea come il leader dei patrioti, osannato quando parla contro gli immigrati. Salvini poi dà il contrappunto dicendo il cancro dell'estremismo islamico, e sul caso Open Arms non possono processare un intero popolo. Certo, perché è un intero popolo, hai capito? Giorgetti torna alla carica sulle tasse, come abbiamo già letto in precedenza come sottotitolo, perché poi c'è stato l'attacco anche a questi contenuti nel mirino banche e imprese. Quelle poche cose comunque che hanno detto su banche, imprese e via discorrendo è perché si fa presto, sapete, a fare dei proclami dove da altre parti, come il partito maggiore in parte di opposizione, su queste cose tentennante o tace o è totalmente assenza. Allora dice: bene, anche questo lo prendiamo noi per quanto riguarda avere più voti. Parliamo anche di operai, dai, così facciamo. Molte volte poi le percentuali testimoniano come certe linee, ma sappiamo benissimo che in un attimo, come si fa presto a fare certi proclami, poi nel concreto come vengono così diluiti, sfumati. In che modo? Bastonando i migranti, oppure, non so, attaccando gli omosessuali o i diritti per le coppie omogenitoriali. E un attimo poi dissolvere tutto quello che si era portato come grande proclama per attaccare banche e grandi imprese nel fango. Con Orbán a Pontida trionfa il leader ungherese e il pratone verde si tinge di nero. È il racconto di Francesco Merlo su Repubblica di una folla in delirio. A me non è risultato poi per i sovranisti europei ospitati al raduno del Carroccio, tra i militanti anche attacchi ai migranti e difesa certo, e difesa della Russia di Putin, è l'unico che resiste all'America. Certo, con questi contenuti punti qui, proprio esattamente, guarda. Salvini tenta il ponte con Trump e Meloni ora teme l'American First. Sì, perché è quei giravolta che vi ho detto in precedenza, Meloni è stata una che ha aperto proprio questa via di arrivare ad avere una posizione di potere, trachete, tutte quelle cose proclamate sono state assolutamente, quindi spazio libero a destra, ecco, a destra ancora più a destra, la Premier intravede i rischi commerciali per l'Italia dei dazi, riunione riservata sul fattore Donald. E poi c'è Vannacci che è diventato una star, che l'hanno fatto Repubblica tra i primi, mi permetto di dire, diventare una star con il libello che ha pubblicato, che è diventato un caso editoriale. Sicuramente se non fosse stato portato così all'attenzione avrebbe venduto sì e no 35 copie, secondo me, così. Però una mia mozione non la escludo. Il generale sul palco di Pontida accolto dai fan, il suo libro va a ruba. Quello di Salvini no, però diciamo che ha fatto un po' un flop editoriale. Meno male che c'è Vannacci invece, che è diventato un autore veramente molto importante. Questo è il reportage che porta Repubblica. Vediamo se anche il Domani ne dà motivo di accenno. Sicuramente figuriamoci il Carlino. Salvini è un patriota europeo. Orbán show, ma Pontida fa flop, dice invece il Domani. Il premier ungherese era la star più attesa della platea sovranista. Italia agli italiani, Ungheria agli ungheresi e Minerbio ai minerbiesi, dico io a questo punto. Loreo ai loredani e via discorrendo. Ma tra citazioni di Ezra Pound, il raduno della Lega ha totalizzato meno di 15.000 presenze. Tra le citazioni di Ezra Pound e bandiere russe, aggiunge anche a pagina 9 il Domani. Questo ecco, mi è venuto, ecco, ogni volta che leggo queste cose qui mi viene poi la tosse, non è casuale. Leggo allora dagli altri anche quotidiani, altri quotidiano, perché leggevo dal Carlino, eccolo qua: Pontida e la manovra, la linea di Salvini, chi farà i sacrifici? Ora tocca alle banche, furbo. Poi vice premier Gela Giorgetti: abbassiamo le imposte, aumentiamo i salari e sulla maggioranza rassicura. Ogni tanto discutiamo, ma siamo compatti. Il pratone sovranista, nasce la santa alleanza dei popoli europei e Orbán dice Matteo è un eroe. Il segretario della Lega: difendiamo i confini, scacceremo gli estremisti. Vannacci: la cittadinanza non si dona, i nostri nonni la conquistarono sul Carso. Ecco, e poi la bandiera della Russia. C'è una bandiera della Russia che dal resto del Carlino viene proprio messa in evidenza con il cerchietto in mezzo alla folla, l'aquila in imperiale, i colori bianco, blu e rosso. E questo, insomma, a pagina 11 dal ho votato Lega, arrestate anche me, il tipico elettore leghista che si vanta, stimati di quello che hai fatto. E questo è il resto del Carlino, pagina 10 e pagina 11. Tanto sanno che non lo arrestano, ma no. Detto questo, mentre Orbán viene salutato dalla folla con degli insulti a Ilaria Salis, tanto per Vannacci sta del pratone, dice il giornale, tra selfie e cori, non userò il partito come un pulmino. E il pensiero di Vannacci è stato molto importante quando ha detto che guai a concedere la cittadinanza agli altri. Noi, dice lui, ce la siamo guadagnata la cittadinanza con le lotte, il nostro impegno. Vorrei ricordare a Vannacci che basta nascere in Italia per avere la cittadinanza italiana. Quale impegno, quali lotte? Detto questo, yo, qui è Yari, DJ Yari nella casa, i cammelli sono in pieno effetto, Ed Mafia nella casa, Fede nella casa, e di fisso c'è Fari. Il cammello imposta a tutti della Lega, voglio fare una proposta, tornate all'epoca di Dante per un po', vi ci vedo bene, se già vi piace l'idea lo so, la realtà è un'altra, sai, si chiama roba unita, non c'è posto qui per te, quel verso la partita, uomo ti senti privato del luogo in cui sei nato, del luogo che la madre terra ci ha donato, non chiedermi se credo nella patria, no, non ci credo, cittadino del mondo io sono un fottuto cammello che accompagna il suono. Hey tu della Lega, mettiti un paio d'occhiali, non ci vedi, vedi, a questo mondo siamo tutti uguali. Di questo mondo tu mi sa che non ne sa una sega, quel che mi viene in mente è slega la Lega, Lega, slega. Slega la Lega, Lega, slega. Slega la Lega, Lega, slega. Slega la Lega, Lega, slega. È la strada che mi insegna quel che sto cantando, dalla strada arriva il ritmo che tu stai ascoltando. Sia la strada quel bel posto da cui io provengo, sia la strada quel bel posto dove sto vivendo. Sì, la strada mi imprime, che i partiti mi fa schifo, la politica mi deprime. Sinistra, centro, destra, fotti, te ne leva la testa, questo è quello che il cammello esprime. Caccia dal nord i subi extracomunitari, è questo che la gente veramente pensa. Lentamente ti ho spiegato di quel che sento qua in città. Che schifo mi fa, ti dico, dico, sento e spero che sta porta cambi con qualcosa di vero sincero. È galante chi saluta. Pace e bene da un fottuto cammello che sputa. Slega la Lega, Lega, slega. Slega la Lega, Lega, slega. Slega la Lega, dunque, antico rapper. Ma in ultimo salutiamo Sammy Basso, il ragazzo con le rughe, dice il Corriere, che non è mai stato vecchio e non c'è più. È morto per un malore al ristorante, soffriva di una malattia genetica rarissima, la progeria di Atchison Clifford. Ed è terribile questa foto dei suoi genitori, che sembrano più giovani genitori di lui, perché questa malattia crea l'invecchiamento precoce della persona, in particolare degli organi. Noi lo salutiamo, questo personaggio ricco di forza, di vita e di coraggio, a 28 anni è scomparso, e con questo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani sempre alla stessa ora. Ciao a tutti, a domani. Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox